Letture di Radio 24. Il 40% dei sacerdoti che lascia una parrocchia non viene sostituito. È il triste quadro di una crisi vocazionale destinata solo a peggiorare nel tempo. Nel migliore dei casi, vengono accorpate all'una o all'altra. Oppure, come capita e sempre più spesso capiterà, restano senza parroco e iniziano un lento declino, destinate per molti giorni a rimanere chiuse. Le statistiche sono impietose. Il 40% dei sacerdoti, che per pensionamento, invalidità o decesso lasciano una parrocchia, non viene sostituito. In alcune regioni la situazione è drammatica. Nelle Marche e in Piemonte il personale in uscita supera di 3 volte quello dei confratelli in entrata. Per mantenere inalterato l'attuale numero di parrocchie dei loro rispettivi territori, data la latitanza di nuove vocazioni, i preti piemontesi dovrebbero esercitare il ministero attivo per 108 anni dopo la loro ordinazione, mentre quelli marchigiani dovrebbero tenere duro per 118 anni di sacerdozio ministeriale. L'Italia delle vocazioni sacerdotali vede in Basilicata e Calabria le regioni più fertili, seguite da Abruzzo, Puglia e Liguria. Quelle dove sembra aver perso ogni attrattiva esistenziale per le nuove generazioni risultano Sardegna, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana. Per strani e poco comprensibili motivi, ci sono regioni, Sicilia, Sardegna, Puglia, Lombardia, che anche se vivono situazioni di penuria pastorale, continuano ad esportare preti verso la Curia Romana e le strutture della CEI, mentre altre, come Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, che scelgono di non inviare chierici a far carriera e anzi preferiscono importarne da regioni e nazioni diverse. Nel 2015 i preti diocesani sono ulteriormente diminuiti di numero, tanto da attestarsi sotto le 25.000 unità. A metà Novecento erano il doppio. In un prossimo e immediato futuro, le cose andranno peggio anche per ragioni che nulla hanno a che vedere con motivazioni religiose. Nel nostro paese, dal 1993, il saldo demografico tra chi muore e chi nasce è a vantaggio dei primi. E tra coloro che nascono, si registra una progressiva diminuzione di maschi. A venire al mondo sono in prevalenza bambine. Ma per la Chiesa il sacerdozio è riservato ai soli maschi. Letta alla luce delle proiezioni demografiche, il futuro sembra pieno di ombre. In Lombardia, con un clero di un'età media di 62 anni, negli anni a venire il calo sarà del 20%, mentre nel vicino Piemonte, con preti mediamente prossimi ai 67,7 anni di età, sarà almeno del 40%. Difficile che la Chiesa in uscita di Papa Francesco troverà truppe pronte a iniziare il viaggio. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Filippo Di Giacomo e Francesco scoprì che l'Italia non è un paese per sacerdoti. Dal venerdì di Repubblica del 16 gennaio. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Letture di Radio 24. Anche l'ultimo pub di Notting Hill, il quartiere londinese reso celebre dall'omonimo film con Julia Roberts e Hugh Grant, sta lottando per non essere trasformato nell'ennesimo Starbucks. Londra è ormai terreno di conquista per i nuovi ricchi che, un po' alla volta, stanno occupando tutti i locali e le botteghe che avevano fatto la gloria della Swinging London. Negli anni 60 Londra era il cuore pulsante della rivoluzione artistica e culturale. La città, dove nei piccoli locali si potevano ascoltare i Beatles, i Rolling Stones, Jimi Hendrix, i Pink Floyd. Esperimenti coraggiosi offrivano educazione gratuita e case popolari. Il servizio sanitario pubblico garantiva tutti. Pena capitale abolita, aborto legalizzato, omosessualità non più discriminata. Ma David Bowie è morto, e anche Londra. O almeno è malata terminale. in uno stato di ostinata negazione, dichiara buona salute, prestigio come capitale della finanza. The International City, ciancia il Times. Il sabato, Bugatti, Ferrari e Rolls fanno girotondi ad Hyde Park. Londra espelle le classi media e operaia per prostituire la città al settore finanziario. Una sorta di città medievale di e per super ricchi, inglesi, russi, arabi, americani, europei, che vogliono una sottoclasse, prevalentemente di immigrati, per pulire i loro uffici di notte, far sparire la loro spazzatura e preparare il caffè a mogli annoiate. Ipercapitalismo. I prezzi delle case in centro sfiorano i 40.000 euro a metro quadrato. Le villette familiari della fu classe media vanno via a 5 milioni. In alcune strade il reddito medio supera il milione. Dei vecchi abitanti non c'è traccia. Una fuga in massa, verso la campagna. Non importa che i pendolari impieghino 3 ore al giorno per andare a lavorare. E pensare che la bohème nasce dalla fantasia, dagli eccessi della gente comune, non dai ricchi. Loro si comprano il riflesso di una cosa che gli sfugge, sorride Edward Stapleton, per decenni al servizio di un nobile di Piccadilly. La malattia terminale distrugge l'autenticità. Fatevi una camminata lungo quello che era il passaggio accanto al Grand Union Canal, da King's Cross fino a Camden. C'erano chiatte abitate, adornate da chi ci viveva. Intorno, antichi magazzini vittoriani, silenziosi testimoni di più di un secolo di pesca, baci e gente che si gustava la pace dei giorni mentre le anatre starnazzavano sull'acqua. Oggi le chiatte e i loro proprietari sono stati espulsi. Le eleganti case di Chelsea, la vera Londra che echeggia Dickens, oppure Canary Wharf, Rotherhithe e Millwall. Tutto demolito per costruire centri finanziari, banche, per il denaro del mondo e chi lo ricicla. Nostalgia, ti senti gridare, come se fosse un crimine piangere la perdita di cose belle e memoria. Ogni cambiamento è per il meglio? I prezzi delle proprietà crescono del 25% l'anno grazie a quelli che una volta si chiamavano speculatori e oggi sono sviluppatori. Ora le autorità che si definiscono governo locale non governano più nulla, servono banche e speculatori. Circa 50.000 famiglie sono state deportate dalla capitale negli ultimi anni. I laburisti la definiscono una pulizia sociale su vasta scala. Le case pubbliche abbordabili sono state demolite o sviluppate. La gente normale non può più comprare una casa o affittarla. Londra è inaccessibile, come una città medievale. Avete ascoltato alcuni passaggi dell'articolo di Ferruccio Sansa e Ed Vugliami, L'ultimo pub di Londra contro i milioni senza anima, da Il Fatto Quotidiano del 19 gennaio. Più diventiamo parte dell'economia industriale e più ignoriamo la storia delle nostre famiglie, del luogo in cui viviamo e dei nostri cibi. Scriveva nel 2002 Wendell Berry nel saggio Il cavallo intero, proposto ora in Italia dalla casa editrice Lindau. Scrittore e attivista ecologista, anche in questo saggio Berry propone alcune riflessioni sui valori della vita rurale, sul rispetto per l'ambiente e sulle contraddizioni dell'economia industriale. Sulla base di questi presupposti, abbiamo a portata di mano un mucchio di merci, ma poca soddisfazione e coscienza dell'adeguatezza di alcunché. La scarsa soddisfazione rende i numerosi prodotti che possediamo nient'altro che un'infinita serie di merci, le più nuove delle quali promettono immancabilmente più soddisfazione delle vecchie. E dunque possiamo affermare che la merce venduta con maggior successo dall'economia industriale è la soddisfazione, e che tale merce, costantemente promessa, comprata e pagata, in realtà non viene mai consegnata. Le persone soddisfatte, d'altro canto, non sentono la necessità di possedere molti beni. La costante ricerca di soddisfazione è collegata direttamente in modo complesso alla nostra dissociazione e a quella di tutti i beni che possediamo dalle nostre e dalle loro storie. Se le cose non durano, se non sono fatte per durare, possono non avere storia, e noi che le usiamo possiamo non avere memoria. Compriamo roba nuova dietro la promessa di una nuova soddisfazione, perché abbiamo dimenticato la soddisfazione che c'era stata promessa quando abbiamo comprato quella vecchia. Una delle prassi tipiche dell'economia industriale consiste nel ridurre la longevità dei materiali. Per esempio, il legno, che quando è impiegato correttamente negli edifici e nei mobili, se ben conservato, può durare centinaia di anni, oggi di solito viene lavorato per produrre oggetti che durano al massimo 25 anni. Non serbiamo affetto per gli oggetti scadenti e precari, e dunque non ce li ricordiamo. In altre parole, non vi investiamo il rispetto e l'ammirazione durevoli che ci permettono di provare soddisfazione. Il problema della nostra insoddisfazione per tutti gli oggetti che adoperiamo non è risolvibile nei termini dell'economia che li produce. In questo momento per noi è praticamente impossibile conoscere la storia economica o il costo ecologico dei prodotti che compriamo. Le origini del prodotto sono di norma troppo lontane e troppo disperse, e i sistemi di vendita, manifattura, trasporto e commercializzazione troppo complicati. Si aggiunga a ciò che i fornitori industriali hanno parecchie buone ragioni per voler nascondere la storia dei loro prodotti. Quando non esiste una contabilità attendibile, e dunque neppure una conoscenza adeguata degli effetti economici ed ecologici delle nostre vite, diventa impossibile condurre un'esistenza economicamente ed ecologicamente responsabile. Questo è il problema che ha ostacolato e in buona misura compromesso fin dall'inizio gli sforzi dei conservazionisti americani. In fin dei conti, è futile perorare una causa, protestare e fare pressione a favore della responsabilità ecologica pubblica, mentre quasi a ogni livello della nostra vita privata accettiamo e sosteniamo un sistema economico che è per sua stessa intenzione, e forse anche per necessità, ecologicamente irresponsabile. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal saggio di Wendell Berry, Il cavallo intero, tratto dalla raccolta La strada dell'ignoranza. Lindau, 144 pagine, 16 euro. Lunedì scorso il Parlamento inglese ha discusso una petizione per la messa al bando di Donald Trump dal Regno Unito. Certo, le parole di Trump risultano odiose, primitive, sgradevoli, commenta Pierluigi Battista in un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera. Ma come si fa a parlare di multiculturalismo e poi negare a qualcuno il diritto di esprimersi e perfino di esistere? Non era una pericolosa buffonata quella di Donald Trump, che nella maleaugurata ipotesi di una sua conquista della Casa Bianca vorrebbe chiudere le frontiere statunitensi ai musulmani? Ecco, la petizione firmata da 100.000 cittadini inglesi che vorrebbero impedire con la forza l'ingresso del candidato Trump in Gran Bretagna magari è meno pericolosa, ma pur sempre buffonata resta. E ha un sapore ancora più grottesco il fatto che il Parlamento britannico, distolto dalle serie incombenze di questi momenti difficili, sia chiamato a dire la sua sulla bizzarra petizione. Sarebbe una parodia di Trump? La legge del contrappasso? Tentativo fallito. Perché davvero, nello spirito dei firmatari della petizione, il dogma dell'integrazione cede per una volta il passo all'odio assoluto per il nemico. I firmatari pensano davvero che Trump non sia degno di entrare nell'isola. Pensano davvero che un candidato alla Casa Bianca debba passare il vaglio di una ideale frontiera delle menti e delle parole, in cui il verdetto potrebbe essere quello dell'espulsione. I laburisti inglesi sono un po' in imbarazzo perché dicono che in questo modo si rischia di fare di Donald Trump una vittima, che insomma l'iniziativa possa suonare come qualcosa di controproducente. Ma l'iniziativa isolazionista non è solo controproducente, è soprattutto sbagliata in linea di principio. Suggerisce l'idea che qualcuno possa essere messo al bando per le parole che pronuncia, anche se queste parole, come nel caso di Trump, risultano odiose, primitive, sgradevoli, irrispettose. Suggerisce che ci sia un'istanza politica che dispone della libertà d'opinione che meglio le aggrada. In nome del multiculturalismo, che in questo caso nega se stesso, impedendo di esprimersi e persino di esistere a chi è molto distante politicamente, e non è più un paradosso. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Pierluigi Battista, Il multiculturalismo isolazionista e la bizzarra petizione per imbavagliare Trump, dal Corriere della Sera del 19 gennaio. Uno dei sogni proibiti di chi ama bere molto è quello di potersi ubriacare senza gli effetti collaterali della sbornia, un po' come capitava a Wolverine nelle storie degli X-Men. Ora pare che in Corea del Nord questo sogno sia diventato realtà, anche se forse ai coreani la sbornia a volte potrebbe essere utile per dimenticare gli eccessi del caro leader. Secondo le notizie diffuse dal Pyongyang Times, il preparato è composto dal 30-40% di alcol e viene fatto con un tipo di ginseng indigeno chiamato insam. Anche se pare insam, altro non è che il nome coreano per dire ginseng. Insieme al ginseng ci sarebbe anche riso coltivato in modo biologico. Dal sapore nazionale che si può bere in quantità alla sera senza la preoccupazione di star male il giorno dopo. La produce la Taedonggang Foodstuff Factory. Sarà vero? Purtroppo le fonti nordcoreane non si sono distinte per affidabilità negli ultimi anni. Oltre al problema strutturale di essere controllate da un regime dittatoriale, le testate giornalistiche hanno, negli ultimi anni, parlato di medicine provenienti dal ginseng, in grado di curare la SARS, la MERS e perfino l'AIDS. Potrebbe essere una bufala anche questa? Speriamo di no. Sempre secondo il Pyongyang Times, il prodotto sarebbe molto apprezzato da esperti e ammiratori, per cui gode di buona stampa. Se lo dicono gli intenditori, sarà vero. Il trucco sarebbe nella sparizione dello zucchero, sostituito dal riso. Toglierebbe il gusto amaro del ginseng e anche la potenziale sbornia. Una scelta vincente. Per ora, però, del fantomatico ritrovato non si ha nessuna traccia. Viaggiatori, non sono tanti in realtà, e frequentatori della Corea del Nord, ancora meno, sostengono di non averlo mai assaggiato né visto. Ma senza dubbio si sbagliano. E quello che avete ascoltato era l'articolo «La Corea del Nord regala al mondo l'alcol senza hangover», pubblicato il 21 gennaio sulla rivista online L'Inchiesta. È boom di conversioni allo zuismo in Islanda. Pur di non versare il finanziamento obbligatorio agli enti religiosi, negli ultimi mesi più di 3.000 islandesi hanno abbracciato il nuovo culto, che oltre a rifarsi alla tradizione sumera, prevede la restituzione delle tasse versate ai propri seguaci. Un tributo sempre meno popolare. Stando a un sondaggio della TV RUV, il 55% degli islandesi lo vorrebbe abolire. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «È scoppiato lo zuismo» dall'Espresso del 14 gennaio.